Dove sei? Dove sei? T'ho cercata tanto ma non t'ho trovata mai. T'ho cercata per le strade, nelle piazze e nei musei, in cantine fumose, nelle chiese e nei cortei. Libertà, dove sei? Libertà, dove sei? T'ho cercata in un amore, ti ho cercata all'osteria, t'ho cercata in un motore o in un'ora di follia. Libertà, dove sei? Libertà, dove sei? Tutti parlano di te, ma nessuno è convincente. Ora dicono che sei nelle tasche della gente. C'è perfino chi ha provato a lanciarti sul mercato. Altri ancora più contenti non fanno altro che innalzarti monumenti. Libertà, dove sei? Dove sei? Dove sei? Libertà, dove sei? Libertà, dove sei? Dove sei? Libertà, dove sei? Dimmi dove sei? Cosa son sicuro, certamente tu non sei nei salotti dei borghesi o nei ghetti dei plebei. Non sei giro per i bar né per le vie della città. Io non credo di trovarti in questa sporca società. Libertà, dove sei? Libertà, dove sei? Libertà, libertà, dove sei? Dove sei? Libertà, dove sei?